questa gente proprio di merda. Oh, lo so, se andiamo lì dove stiamo con il cipino? Prendo il telecamerino e gli facciamo due domande. E allora? Attacca! Sono nato incazzato, adesso l'hai capito, sono nato sbagliato, ma non ho fallito, sono stato adescato, da un mondo che ben pezzi sono uscito segnato, ma solo con i miei mezzi, se la sfiga fosse pioggia, sarei tutto bagnato, se la sfiga fosse terra, sarei sotterrato, se la sfiga fosse un crimine, sarei ricercato, se la sfiga fosse fango, sarei impantanato, sono tornato, già, mi avevano cacciato, ma non resto da solo, non ci sono abituato, gli amici mi circondano, li faccio scappare, solo di gente vera, mi voglio circondare, i rami secchi, invece li vado tagliando e con questo giochino mi sto purificando. Questo è ciò che sono e non scappo dal destino. Questa è la mia strada, segui il mio cammino. Tu sei il virus, una schifosa infezione, un maledetto virus, che brutta sensazione. Sono vaccinato, per te sarà dura, sono immunizzato, per natura. Infetti la gente ma sei solo un incapace, inganni te stesso e addirittura ti piace. Amici non ne hai ma mi sembra evidente, il problema sei tu e il tuo fare saccente. Adesso vedo solo su una traccia troppo sana, e adesso fai silenzio che sembri una... Ci hai preso i veri idioti e ho preso tutti quanti, ma chi ti ha dato retta? Noi guardiamo avanti, ho in mano la fortuna, ti passo di fianco, me ne fumo una, molla, mi sono stanco di quelli come te, ti chiamo quando mi conviene, lo dico sempre, ne ho le palle piene. Non è il tuo sangue che ti scorre nelle vene, ti vanti di un successo che nemmeno ti appartiene, ti vanti di un successo che ti è stato garantito da chi ti gira intorno e non ha ancora capito che alla prima occasione, sporco opportunista, prendi un altro impegno e li togli dalla lista. Amici, parenti e chiunque ti sta intorno, hai la faccia come il culo, potresti fare un porno. Mi ci vogliono 2 anni ad arrivare al tuo livello, ma forse non mi bastano per fottermi il cervello. Ti affidi ai consigli di chi non ne sa niente, ti credi chissà cosa, povero demente. Di amici produttori ne ho sentito parlare, ma da quelli del giro mai sentiti nominare. Famosi a parole, ma a mancare sono i fatti, può suonare dove vuole, ma pubblico 2 gatti. Tu sei il virus, una schifosa infezione, un maledetto virus, che brutta sensazione. Sono vaccinato, per te sarà dura, sono immunizzato, per natura. Infetti la gente ma sei solo un incapace, inganni te stesso e addirittura ti piace. Amici non ne hai ma mi sembra evidente, il problema sei tu e il tuo fare saccente. Adesso vedo solo su una traccia troppo sana, e adesso fai silenzio che sembri una... Ci hai preso i veri idioti e ho preso tutti quanti, ma chi ti ha dato retta? Noi guardiamo avanti, ho in mano la fortuna, ti passo di fianco, me ne fumo una, molla, mi sono stanco di quelli come te, ti chiamo quando mi conviene, lo dico sempre, ne ho le palle piene. Chiedo bene, ho sbagliato, i fatti ci sono, basta guardare te, il fumo era buono, forse pure troppo a guardare gli effetti. Quelli come te andrebbero protetti da un ente ecologista contro l'estinzione. Il tuo stato è un controesempio per la tua generazione, il tuo corpo conservato in un museo mummificato, monito celeste per ognuno che ha abusato di qualunque sostanza presente nel creato. Vedi cosa è successo a uno che si è calato, e adesso lentamente scompare la mia voce, che per te adesso non suono tanto atroce. Nessuna esitazione, contro me ti sei messo, un po' di educazione chiedi almeno il permesso. Adesso hai di fronte una forza troppo tosta, l'animo nero di Moreno Costa. Tu sei il virus, una schifosa infezione, un maledetto virus, che brutta sensazione. Sono vaccinato, per te sarà dura, sono immunizzato, per natura. Infetti la gente ma sei solo un incapace, inganni te stesso e addirittura ti piace. Amici non ne hai ma mi sembra evidente, il problema sei tu e il tuo fare saccente. Adesso vedo solo su una traccia troppo sana, e adesso fai silenzio che sembri una... Ci hai preso i veri idioti e ho preso tutti quanti, ma chi ti ha dato retta? Noi guardiamo avanti, ho in mano la fortuna, ti passo di fianco, me ne fumo una, molla, mi sono stanco di quelli come te, ti chiamo quando mi conviene, lo dico sempre, ne ho le palle piene.